le prime stelle in cielo brillano già. Tra i biancospini il vento mormoreggia. Sembra un incanto il bosco sotto la luna. Favole appassionate, prepari tu. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Intrecciati tra i rami in bio, c'è un nido semplice dove nasce l'amore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco. Conoscerlo tu. Intrecciati coi rami miei.